Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non ce l'hanno fatta, ma ci hanno provato. Hanno cercato di raccogliere i senatori responsabili. È il loro diritto provarci. Oggi. Prossima volta farebbero meglio a riuscirci. Ma non ci sono riusciti, dice Renzi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a Porta questa sera. Queste sono alcune anticipazioni in audio, poi alcune ve le racconterò invece a voce di questa colloquio, di questa, anzi diciamo intervista direttamente con Bruno Vespa questa sera a Porta per l'appunto di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che già ieri aveva annunciato che sarebbe stata una puntata in cui avrebbe fatto dichiarazioni cruciali per la durata del governo, per questa legislatura. Fra le cose, diciamo, più forti che ha detto, a parte questa, dice che continua a accusare Conte di volerlo cacciare dal governo, di trovare dei sostituti, dice però per ora non ci sono riusciti. Dicevo, la dichiarazione più importante è che fa un appello a tutte le forze politiche affinché si arrivi a praticamente eleggere il Presidente del Consiglio così come si elegge il Sindaco, quindi che sia un'elezione diretta. Che cosa ne pensate voi, per esempio? Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Durante il giorno, se volete, il Twitter è Roby con la Y linetta bassa Giordano, oppure il Twitter durante la diretta, quello appunto di Effetto Notte. Ma partiamo prima di tutto con la sintesi della giornata. Alta tensione nel governo, Renzi sfida Conte, propone l'elezione diretta del Premier, il Presidente del Consiglio replica riforme, la crescita viene prima. Coronavirus, è decollato alle 19.08 il Boeing dell'aeronautica militare che andrà a recuperare in Giappone gli italiani sulla nave Diamond Princess. Brexit, dal 2021 avrà il visto in Gran Bretagna solo chi sa l'inglese, è qualificato e ha già in tasca un contratto di lavoro, porte chiuse invece a tutti gli altri. Prostituzione minorile, a Roma il fenomeno è inquietante, dice la PM che si occupa dei diritti dei minori. Pay TV e abbonamenti pirata, denunciati 223 clienti, inchiesta della Guardia di Finanza, rischiano 8 anni per ricettazione. Calcio in campo per la Champions League maschile, l'Atalanta contro il Valencia. Partiamo quindi dai sempre più forti attriti nel governo, attesa per le dichiarazioni di Matteo Renzi questa sera Porta a Porta, anche se già arrivano, come avete sentito, alcune anticipazioni. Il leader di Italia Viva lancia la sfida al Presidente del Consiglio Conte, dice vuole cacciarmi, bene, ma deve riuscirci visto che sinora non gli è riuscito, e fa un appello a tutti i partiti, votiamo una persona che stia al governo 5 anni e sia responsabile. Per me la soluzione è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Sentiamo. Portiamo l'unico metodo istituzionale che funziona, che è quello dei sindaci a livello nazionale. Cioè, mettiamoci d'accordo per eleggere, cambiando le regole, il sindaco d'Italia. Conte intanto replica, in questo momento siamo concentrati su una priorità che è quella di far crescere l'Italia. Intanto la Commissione Giustizia della Camera approva con 24 sì e 23 no l'emendamento del Movimento 5 Stelle che sopprime il disegno di legge Costa sulla prescrizione, ma Italia Viva ha votato con l'opposizione per cancellare la riforma Bonafede. Il PD dice Italia Viva mina il governo, non lo tollereremo ancora per molto. Nel frattempo il leader di Italia Viva, Renzi appunto questa mattina, ha sottolineato però che sarebbe sbagliato dividersi sulla politica europea. Domani c'è il Consiglio sul bilancio dell'Unione, oggi lo ha presentato in aula il Presidente del Consiglio. Non siamo disposti ad accettare, in nome di una rapida conclusione del negoziato, un bilancio europeo insufficiente per il futuro dei nostri cittadini. Nessun compromesso al ribasso sul bilancio europeo, la proposta non è adeguata e va migliorata, altrimenti sarebbe una sconfitta politica. Lo ribadisce chiaramente nelle sue comunicazioni al Senato il Premier Conte, all'Italia la proposta di bilancio pluriennale presentata dal Presidente del Consiglio europeo Michel non piace e occorre essere più ambiziosi per affrontare le sfide dei prossimi anni, soprattutto in un momento in cui tensioni commerciali e coronavirus rendono ancora meno favorevole la congiuntura economica. Poche in particolare, secondo il governo, le risorse destinate a sicurezza, difesa, digitale, Green Deal. L'Italia chiede che non si scenda al di sotto della proposta della Commissione per un bilancio pari all'1,11% del reddito nazionale lordo e la salvaguardia delle risorse destinate a politica di coesione e agricoltura. Sarà un vertice complesso e complicato, dice Conte, e anche la cancelliera tedesca Merkel mette le mani avanti rispetto ad un possibile accordo. Non so ancora, dice, se ci si riuscirà. Di sicuro, ha fatto sapere già Michel, si andrà avanti a oltranza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E naturalmente tra poco torneremo su tutti questi temi. Sul fronte dell'opposizione, Salvini torna ad attaccare l'esecutivo mentre in giunta dell'immunità del Senato prosegue il dibattito sul caso Open Arms. Conte e Renzi non sono d'accordo su nulla, Italia Viva sfiducia il governo e si vada a votare. Matteo Salvini soffia sul fuoco delle polemiche e invita Matteo Renzi a fare un passo indietro. Mi aspetto che mettano fine a un governo senza senso, cioè se hanno dignità e coerenza dicono ci abbiamo provato, è 5 mesi che stiamo lì, non andiamo d'accordo su nulla tranne che sul fatto che ci sta antipatico Salvini. E il leader della Lega è di nuovo al centro delle discussioni della giunta immunità del Senato, chiamata da questa sera a esaminare la nuova richiesta di autorizzazione a procedere contro l'ex ministro dell'interno nella vicenda della nave Open Arms, richiesta inoltrata dal Tribunale dei Ministri di Palermo. Dopo l'ok del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere per il caso della nave Gregoretti, ora la Giunta dovrà esprimersi sulla decisione di Salvini di bloccare per alcuni giorni lo sbarco dei migranti dalla nave Open Arms. Il voto decisivo è previsto per il 27 febbraio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso facciamo il punto sul coronavirus. È decollato alle 19.08 il Boeing dell'aeronautica militare che andrà a recuperare in Giappone 30 italiani insieme ad altri 27 europei sulla nave da crociera Diamond Princess, rimasta bloccata, lo sapete, abbiamo parlato tanto in questi giorni, in quarantena per 2 settimane nella baia di Yokohama. Resterà invece a bordo il comandante italiano della nave. Intanto salgono a 621 i contagi sempre sull'imbarcazione, mentre per la prima volta in Cina il numero di persone guarite supera quello dei nuovi contagi. È previsto per domattina l'arrivo in Giappone del volo dell'aeronautica militare che riporterà a Roma gli italiani ancora sulla Diamond Princess, la nave da crociera diventata il principale focolaio di coronavirus fuori dalla Cina, oltre 600 contagiati su 3.200 persone. Gli italiani a bordo sono 32, il comandante resterà, un turista settantenne contagiato, per gli altri 30 sono in corso i test da parte di un'equipe medica italiana. I negativi al test rientreranno nella notte tra giovedì e venerdì e andranno in quarantena a Pratica di Mare. Con loro ci saranno altri 25-27 europei negativi che poi andranno nei loro paesi. L'italiano positivo e altri eventuali italiani contagiati rientreranno in seguito o, se gravi, saranno ricoverati in Giappone. È intanto negativo al test l'italiano rientrato a Sanremo dalla nave in Cambogia, mentre allo Spallanzani migliorano le condizioni della coppia di cinesi e sono ottime le condizioni dell'italiano 29enne contagiato. Intanto da 2 giorni a livello mondiale il numero di persone guarite supera i nuovi contagi. Buone notizie, secondo il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora, tra l'altro, è possibile, notizia di oggi, guardare da vicino una delle armi che il nuovo coronavirus usa per aggredire le cellule umane, conoscerla e trovare il modo per neutralizzarla. È pronta, a questo proposito, la mappa 3D di una delle proteine che si trovano sulla superficie del virus ed è un aiuto senza precedenti per ottenere farmaci mirati per curare la malattia provocata appunto dal coronavirus, il Covid-19 e il vaccino per curarla. Questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science e il risultato si deve all'Università del Texas ad Austin, che ha lavorato anche grazie al finanziamento dell'Istituto Americano per la ricerca sulle malattie infettive. Adesso all'estero, con la Brexit, il Regno Unito si prepara dal 2021 a sbarrare gli ingressi, dopo la fine della transizione post-Brexit, ai nuovi immigrati a bassa qualificazione e che non hanno una certa dimestichezza con la lingua inglese, inclusi quelli che dall'anno prossimo busseranno alle porte dai paesi dell'Unione Europea. E questo è l'obiettivo da parte della Gran Bretagna, il modello a punti di tipo australiano illustrato dal governo. Il visto di lavoro potrà essere concesso solo a richiedenti che abbiano un minimo di 70 punti, in base a questo modello appunti per l'appunto, scusate il bisticcio di parole, qualificazione per settori con carenza occupazionale nel Regno Unito e conoscenza dell'inglese. Però nel corso di questa puntata avrete altri dettagli. Ora di nuovo in Italia, parlavamo ieri lungamente di questa proposta di acquisto da parte di Intesa San Paolo verso UbiBanca, un'offerta sorprendente della quale si prende atto, e quanto trapela dal consiglio di amministrazione di UbiBanca all'indomani di questa offerta pubblica di scambio arrivata appunto da Intesa San Paolo. Siamo una banca ambiziosa, dice il presidente d'Intesa Gianmaria Grospietro. Dai soci UBI mi aspetto una risposta positiva. Non commenta l'operazione in corso il ministro dell'economia Gualtieri. E intanto l'amministratore delegato di UBI, Victor Massià, sembra però voler prendere tempo. Dice: prima di diventare progetto dovrà passare attraverso un complesso e per nulla scontato iter autorizzativo delle autorità vigenti. Passiamo all'acquisizione di Auchan da parte di Conad. 3.000 esuberi, ma nessun licenziamento nel 2020. Ad oggi non abbiamo fatto alcun licenziamento e per tutto il 2020 non ne faremo. Parliamo di licenziamenti collettivi. È quanto ha affermato il segretario generale di ANCD Conad, Sergio Imolesi, in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera sugli sviluppi dell'acquisizione del gruppo Auchan. Imolesi, durante l'audizione, ha spiegato che l'organico non sostenibile è pari a circa 6.000 persone, di cui 3.000 sono già state sistemate. Quindi i potenziali esuberi sono 3.000. Le soluzioni che abbiamo ipotizzato riguardano prepensionamenti, sostegno al reddito con cassa integrazione e incentivi volontari, ha aggiunto. Ad oggi, oltre un centinaio di punti vendita hanno già l'insegna Conad e stanno andando bene. C'è un incremento del fatturato in media del 15%, ha concluso Imolesi. Per l'avvertenza Auchan Conad è previsto un nuovo incontro il 22 febbraio, ma secondo il segretario della CGIL Landini le cose non stanno andando benissimo e a margine di un convegno ad Ancona ha ribadito: non abbiamo nessuna intenzione di firmare i licenziamenti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto Air Italy continuerà a coprire sino alla scadenza del 16 aprile il servizio di voli in continuità territoriale, quindi a prezzi agevolati, sulle rotte tra l'aeroporto di Olbia e gli hub nazionali di Roma e Milano. Nulla cambia nella procedura di liquidazione, però, anche se sul tavolo di discussione potrebbe arrivare la proposta della Regione Sardegna a entrare nel capitale col 51% accanto al Qatar, che terrebbe il 49%. La cronaca, audizione oggi della sostituta procuratrice a Roma e coordinatrice del pool che si occupa dei diritti dei minori. La prostituzione, ha detto, la prostituzione minorile è uno dei fenomeni più inquietanti. Davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta per l'infanzia e l'adolescenza, lancia l'allarme sulla prostituzione minorile a Roma il PM Maria Monteleone, alla guida del pool di magistrati che si occupano dei reati contro la violenza di genere e contro i minori. La prostituzione minorile è uno dei fenomeni più inquietanti, che purtroppo vedono sempre più protagonisti anche bambini con meno di 14 anni, di 13 o di 12 o anche di 10 anni. Solo nella capitale, nel 2019, riferisce il PM Monteleone, sono stati aperti 31 nuovi procedimenti penali e negli anni passati c'era stata un'impennata in questa materia dopo la vicenda delle cosiddette baby squillo. In costante e significativo incremento, riporta il PM, anche i reati contro i minori che si consumano in famiglia. La grande maggioranza di questi bambini ascoltati con modalità protette riguardano condotte criminose che si consumano all'interno del nucleo familiare. Inquietante infine il costante aumento del delitto di adescamento dei minori attraverso internet. Solo nel 2019 a Roma i procedimenti penali per questo reato sono aumentati del 12,8%, passando da 117 a 132. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizia sui seggiolini antiabbandono: per il contributo statale da 30 euro per l'acquisto di questi dispositivi, obbligatori per legge per trasportare in auto bambini fino a 4 anni di età, da domani 20 febbraio sarà possibile richiedere il bonus registrandosi su una piattaforma SOGEI accessibile dal sito del MIT, del Ministero dei Trasporti, cioè www.mit.gov.it. Entro un mese poi bisognerà spendere la cifra per l'acquisto dell'apparato oppure sarà necessario farne nuova richiesta. E poi Pay TV e abbonamenti pirata sono stati denunciati in una operazione della Guardia di Finanza. 223 clienti che approfittavano appunto di questi abbonamenti pirata per le Pay TV rischiano 8 anni per ricettazione. Poi ne parleremo con un esperto. Per chiudere lo sport col calcio, cominciare dal calcio donne: la Juventus donne ha vinto la Viareggio Women's Cup, trofeo ondino organizzato dalla CGC Viareggio, vincendo 3-2 contro la Roma a Montignoso. Presente in tribuna Marcello Lippi. Mentre invece per la Champions maschile è in corso la partita dell'Atalanta contro il Valencia. In Champions League ha appena fatto un gol l'Atalanta, vedo in questo momento in vantaggio di 1-0. E con questa notizia direi che possiamo lasciarci giusto per qualche istante per aggiornare chi viaggia. Poi ritorno ratta come la folgore a approfondire alcuni temi con gli ospiti. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Fettonotte. Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi. Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a febbraio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAG 1,31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tantissime notizie come sempre, avete sentite riassunte come usuale nella prima parte della puntata. Adesso cominciamo invece ad affrontare alcuni temi in primissimo piano con gli ospiti, a partire dalla politica. E vedo molti vostri commenti anche sull'appello che ha fatto Renzi, questa è un'anticipazione da Porta a Porta, sulla elezione diretta del Presidente del Consiglio. Adesso ne parleremo. Poi fra le altre notizie principali della giornata, coronavirus, con l'aereo che è decollato alle 19:08 dell'aeronautica militare che andrà a recuperare in Giappone i nostri connazionali bloccati da giorni sulla nave Diamond Princess. Brexit, l'avete sentito, dal 2021 avrà il visto in Gran Bretagna solo chi sa l'inglese, che chi è qualificato e ha già un contratto in tasca. Poi approfondiremo anche questo argomento. Prostituzione minorile, l'avete sentito, a Roma il fenomeno inquietante, dice la PM che si occupa di diritti dei minori. E poi per le pay TV e abbonamenti pirata, denunciati 223 clienti in un'inchiesta della Guardia di Finanza, rischiano 8 anni per ricettazione. Ce ne occuperemo anche di questo per capire, insomma è un rischio ovviamente approfittare di questi abbonamenti pirata. E poi vi ho detto che nella partita maschile di Champions League l'Atalanta è in vantaggio di 1-0 sul Valencia. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita? E in effetti è proprio il caso di chiedersi che sarà, che sarà, che sarà, che sarà delle dichiarazioni di Matteo Renzi stasera Porta a Porta, avendo egli annunciato già ieri che saranno parole cruciali per il governo. Che sarà del costante duello ingaggiato da qualche tempo tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte? Che sarà della presenza di Italia Viva di Renzi nella maggioranza di governo, visto che Renzi accusa Conte di volerlo cacciare? Che sarà del presidente del Consiglio Conte, dal momento che si vocifera che Renzi lo voglia sostituire con un altro presidente del Consiglio? Che sarà del ministro della giustizia Bonafede, dato che Renzi minaccia di sfiduciarlo sul tema della prescrizione in particolare? E con tutto questo, che sarà del governo stesso, della sua durata e in definitiva che sarà del nostro paese, delle nostre vite, visto che dipendono da chi ci governa? Forse troppe domande esistenziali, cara Barbara Fiammeri? Ciao cara Barbara. Ciao, io mi sto già preparando con la sfera magica per fare previsioni. Vedo, la immagino punto, con quindi delle luci violacee, delle stelline dentro, e tu che con le mani muovi e gli occhi puntati. Ce lo dici tu che sarà Barbara? Vabbè, diciamo che si può dire tutto il contrario di tutto. È vero, è vero, come qualcuno sa, insomma. Allora, insomma, da quello che sappiamo, dalle anticipazioni di questa puntata di Porta a Porta di cui tu parlavi poco fa, in realtà Renzi non ha detto che uscirà dalla maggioranza, ha lanciato la proposta per un governo istituzionale per fare le riforme, fare le riforme, no? Mm. Però vedo già diverse dichiarazioni, reazioni, per esempio, a parte guarda, Franceschini del PD, che insieme a Renzi, insieme a Grillo sono stati i principali fautori di questo governo giallorosso. Franceschini che cosa ha detto? Ha detto, senza citare il nome di Matteo Renzi, né nome né cognome, ha detto: mentre stavano per morire la rana chiese all'insano ospite il perché del suo folle gesto. Perché sono uno scorpione, rispose, è la mia natura. E diciamo, il riferimento alla fiaba di Esopo che tutti conosciamo, dove c'è lo scorpione che si fa trasportare nello stagno dalla rana, però poi la punge, questa è lì che sta morendo mentre lo sta portando in salvo, e dice: perché lo fai? Dice la rana, e lui dice: la mia natura. E quindi si riferisce definito come uno scorpione, credo, praticamente, Renzi. Sì, nel senso che, vabbè, è chiaro che Renzi sta cannoneggiando la maggioranza da tempo. A sua volta lui sostiene che non lo ascoltano, che quindi vogliono solo i voti di Italia Viva, ma non anche le idee di Italia Viva. Dall'altra parte invece dicono che il suo è sostanzialmente una guerriglia continua. Anche oggi peraltro Italia Viva ha votato in Commissione Giustizia con l'opposizione. Quindi nonostante faccia parte della maggioranza, ha votato con l'opposizione, diciamo, di centrodestra. Diciamo che in altri tempi, ai tempi della prima sulla Repubblica, sarebbe tanto bastato per andare per una crisi di governo, perché il Presidente del Consiglio salisse al colle. Nella seconda e nella terza invece si sono è sfumata, diciamo, questa tradizione. Insomma, Renzi lancia questa proposta nella convinzione che dall'altra parte, cioè nel centrodestra, qualcuno, no? Qualcuno possa cogliere, sì, diciamo, sì, la palla al balzo. Però, per esempio, sì, leggo Gelmini di Forza Italia che dice: Renzi prima faccia cadere il governo, poi si fanno le riforme, mentre Salvini Salvini, leader della Lega, dice: avessimo un governo che fa delle cose che non condivido sarebbe un fatto, ma avere un governo che non fa nulla perché litiga su tutto è un dramma, quindi spero che si voti il prima possibile e non esistono governini, governicchi, accordi segreti, trucchetti di palazzo, prima si vota e meglio è, che è un po' una risposta anche questa a Renzi, no? Sì, dice anche però che sulla proposta in sé, sul merito, non è che gli dispiace quello dell'elezione diretta del premier. Scusa, ma infatti, cioè, Barbara, non è sempre stato più un cavallo di battaglia del centrodestra questo dell'elezione diretta? No, anche D'Alema aveva fatto un'ipotesi del genere, sì, cioè in realtà, insomma, lo stesso, infatti Renzi fa riferimento a Maccanico, perché in realtà il sindaco d'Italia non è un'elezione, è un'elezione diretta, ma che prevede però il doppio turno, quindi un po' un sistema, diciamo, alla francese, no? Lì per il Presidente della Repubblica, qui per il Premier. Sentiamo anche questo passaggio di Renzi, questa anticipazione di Porta a Porta. Portiamo l'unico metodo istituzionale che funziona, che è quello dei sindaci a livello nazionale. Cioè, mettiamoci d'accordo per eleggere, cambiando le regole, il sindaco d'Italia. Enea scrive: il popolo è sovrano, poi io non sopporto veramente più coloro che non perdono occasione per parlare male dell'elettore medio italiano, ma chi credete mai di essere, eccetera eccetera. Poi invece qualcun altro dice: non mi fido di Renzi col suo stai sereno in generale, vabbè. Mentre Marco dice: considerando l'elemento, proporrei l'elezione diretta per stinguerlo, va bene. Senti, invece c'è una cosa però da sottolineare fra le altre, Barbara. Intanto dimmi solo sinteticamente se c'è la possibilità, effettivamente, se la vedi nella tua sfera questa, di arrivare a un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, anche se Conte ha risposto: no, per me in questo momento la priorità è far crescere il paese, non mi interessa. No, perché insomma mi sembra un po', se posso essere un po' greve, mi sembra un modo per buttarla in caciara, come si dice a Roma. Perché insomma, in una situazione come questa non è tempo di larghe intese, di accordi istituzionali. Anche perché per la prima volta, perché in questa legislatura c'è un'anomalia, ovvero che di solito quando un governo, insomma, ci sono crisi nelle maggioranze, dall'altra parte c'è il pericolo elezioni, no? Cosa che in questo caso non c'è, per cui anche i giochi cosiddetti di palazzo, di mosse e contromosse, sono insomma un po' più complicati, perché non c'è lo spettro del voto, nel senso che noi sappiamo che la prima finestra utile per andare a votare non arriverà prima di un anno, cioè a febbraio dell'anno prossimo. E calcoliamo anche, così i nostri ascoltatori che sono molto attenti lo sapranno già e potranno dirlo a tutti, calcoliamo anche che dal 1 agosto del prossimo anno comincia il semestre bianco, quello in cui il Presidente della Repubblica, secondo quanto prevede la Costituzione, non può sciogliere le Camere. Quindi si aprirebbe una finestrella tra, diciamo, febbraio e giugno del prossimo anno. Del prossimo anno, quindi del 2021. Nel 2021. Quindi perché anche questa cosa che i responsabili non si fanno avanti? Perché i famosi responsabili, scusa Barbara, spiego, sarebbero quelli che dovrebbero sostituire eventualmente il partito Renzi, di Renzi, per non far cadere il governo. Ma perché anche Renzi cannoneggia così impunemente e anche, uno potrebbe dire, imprudentemente la maggioranza? Perché se c'è uno che non vuole andare al voto è Matteo Renzi, basta guardare i sondaggi. Poi lo daremo qualche numero di sondaggi. Lo fa perché sa, anzi l'ha detto questa sera Porta a Porta, perché sa che non si può andare a votare. Quindi cioè lui può continuare la sua guerriglia con il governo, ma il suo obiettivo principale per ottenere cosa? Perché lui vuole buttare giù Conte. Quindi cioè, è vero che vuole buttare giù Conte. Chi vorrebbe mettere? Chi potrebbe mettere al suo posto? Chiunque. Perché del centrodestra, centrosinistra, va bene, del PD, del Movimento 5 Stelle, pure Di Maio. Cioè, perché questo? Perché Conte è il suo antagonista. Cioè, la verità vera è che Conte, che era un signor nessuno, cioè nessuno di noi conosceva Giuseppe Conte quando arrivò, no? Nel precedente governo a Palazzo Chigi. Beh, Conte in questi due anni si è di fatto consolidato un suo consenso, tant'è che noi vediamo che in tutti i sondaggi l'indice di fiducia del Premier è tra i più alti, insieme a quello di Salvini e della Meloni, sono loro tre. Quindi dici, lo sente come antagonista Renzi e vuole ma Conte non gioca come Salvini e la Meloni a destra. Conte gioca al centro dello schieramento, che è lo stesso centro su cui punta Matteo Renzi con Italia Viva. Per questo nasce Italia Viva. Italia Viva nasce non in competizione con il PD, ma per prendere voti anzitutto nell'area moderata, tanto di centrodestra che di centrosinistra, cioè quel che resta di Forza Italia e quella parte del PD che non vuole andare più a sinistra. E tra l'altro, Barbara, va detto che mentre in questi giorni effettivamente si diceva che diversi parlamentari di Italia Viva probabilmente sarebbero sciamati verso il PD, verso la maggioranza di governo, eccetera, comunque altre forze politiche, in realtà ieri due parlamentari, una parlamentare di Liberi Uguali e uno del Partito Democratico, Tommaso Cerno, sono andati a Italia Viva. Sì, verissimo, però io sono pronta a scommettere, anzi, sì. Mi travesto quanto? Da fattucchiera, non sì. Da maga, da fattucchiera, perché questo mi si addice, qualora Renzi facesse un accordo... Guarda, quel messaggino era di Renzi che ti è arrivato, l'ho sentito. Ah, sì. Poi ci dici cosa è detto. Sì. Che facesse un accordo per un governo con Salvini, i suoi parlamentari... ne ha guadagnati due, sì. Ecco, ne perderebbe secondo me più della metà. Ma perché tu dici che potrebbe mai esserci questa fusione tra i due Mattei? Allora, secondo o avvicinamento, me quantomeno. Qualcuno ci lavora, no? Lo stesso Giancarlo Giorgetti in passato ha detto che insomma sul governo istituzionale aveva dato delle aperture. Ma come fa come dire, un parlamentare che non vuole andare a votare a mettersi nelle mani di Salvini, che è l'unico che veramente vuole andare al voto insieme alla Meloni e forse insieme al PD? In realtà il vero accordo per tornare al voto dovrebbe essere quello tra Salvini e Zingaretti, che c'era questo accordo, cioè l'estate scorsa Zingaretti e Salvini erano d'accordo. Volevano andare al voto, poi sì. Renzi e Grillo li hanno convinto Zingaretti ad allearsi col Movimento 5 Stelle. Soprattutto Zingaretti ha visto che nel partito la sua posizione era minoritaria, almeno nella parte tra i parlamentari. Visto che l'hai evocato, sentiamo che cosa ha detto oggi Zingaretti, segretario del PD. Io credo che qualcuno agli italiani e alle italiane, se continua così, gli farà venire il mal di testa. Con questo chiacchiericcio insopportabile del quale non si capisce il fine. Abbiamo qualche mese fa fatto un governo insieme perché proposto, peraltro, innanzitutto da alcune personalità politiche. Ora c'è solo una cosa da fare, governare bene con il cuore e con la testa per questo nostro bellissimo paese. E poi sentiamo anche per il Movimento 5 Stelle il reggente Vito Crimi. Distrazioni, litigi e sparate non ci interessano, il Paese non se lo può permettere. In questo momento abbiamo una sfida importante che è quella della crescita e in questi giorni stiamo lavorando. E poi dall'opposizione Giorgia Meloni, come interpreta questi atteggiamenti di Matteo Renzi dal suo punto di vista? Sentiamo. Mi sono fatta l'idea che Renzi sia una persona che si diverte a leggere il suo nome sui giornali, che non abbia alcun interesse per i problemi dei cittadini e che stia, diciamo così, facendo il personaggio in cerca d'autore. Credo che sia un grande bluff. Credo che in realtà lui parli di temi come la prescrizione piuttosto che le intercettazioni, di problemi verso il governo, magari per spuntare qualche nomina in più. Leggo qualche messaggio tra i tanti. Sandro dice: faccio veramente difficoltà a capire questa situazione, una cosa per me è chiara, ci sono due Mattei che fanno male al paese, secondo lui. Simone dice: disperato Renzi cerca di rientrare in gioco con la destra in ogni modo. Poi Vincenzo: io sono per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Vabbè, anche di questo si parla da parecchio. Poi quindi Barbara, a questo punto, no, con tutte queste dichiarazioni che fa, le anticipazioni che abbiamo sentito e riferito, quindi le prossime mosse quali saranno? Allora, cioè, abbiamo detto da una parte Conte che se potesse, è vero Conte che se ne vuole adesso, un po' liberare di Italia Viva e Renzi che invece lo vuole sostituire. Chi farà la prima mossa, chi farà la mossa vincente, diciamo così? Allora, secondo me quello più in difficoltà che se ne dica è Renzi, perché comunque Renzi ha un problema grosso che è che il suo partito è fermo al 3-4%, al di là dei numeri dei parlamentari, e questo può diventare molto pericoloso. Perché può diventare pericoloso? Perché l'accordo sulla legge elettorale che c'è in questo momento nella maggioranza di governo è per una legge proporzionale con sbarramento al 5%. E lui è sotto il 5%. Sondaggio Demopolis, leggo, sì, che è stato fatto per la trasmissione 8,5 sulla 7. Se si votasse oggi per le politiche, la Lega, pur perdendo 3 punti rispetto alle ultime europee, si confermerebbe primo partito col 31%, con un ampio vantaggio sul PD, che sfiorerebbe invece il 21%. Il Movimento 5 Stelle, secondo questo sondaggio Demopolis, avrebbe il 14,5%, prosegue la crescita di Fratelli d'Italia che supera il 12%, Forza Italia al 5,1%, il partito di Renzi in lieve calo si posiziona al 4%, la sinistra con Liberi Uguali ottiene il 3,2%, mentre restano sotto il 3% le altre forze minori. Direi, Barbara, su questo abbiamo fatto un quadro generale a questo punto. Che sarà, bisogna dire, no? Aspetteremo, ci saranno tante occasioni per riparlarne. È chiaro, e ti aspetto. Non ci fanno mancare le sorprese. No, e non ci annoiamo veramente mai. Grazie Barbara Fiammeri, ben presto. Grazie a voi, buonasera. Ciao Barbara. Pausa di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri commenti e le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure inviateli via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E adesso colleghiamoci col nostro inviato a Bruxelles, il nostro Sergio Nava. Caro Sergio. Ciao Roberta. Ciao. Sergio, con te, approfittando appunto della tua collocazione, vorrei trattare due argomenti importanti. Uno è che siamo alla vigilia del vertice europeo straordinario di domani, con il discorso tenuto oggi in Senato dal Presidente del Consiglio Conte. E poi direi che di interesse generale, soprattutto per i più giovani, anche il tema delle nuove regole che la Gran Bretagna, in seguito alla Brexit, intende imporre agli stranieri, cittadini dell'Unione Europea compresi. Ma direi partiamo dal vertice europeo straordinario di domani, Sergio, in vista del quale appunto dicevo Conte ha tenuto questo intervento al Senato, e farei sentire due passaggi di Conte oggi su questo argomento. Sentiamo. Non siamo disposti ad accettare, in nome di una rapida conclusione del negoziato, un bilancio europeo insufficiente per il futuro dei nostri cittadini. Saremmo infatti in presenza di una sconfitta non meramente di natura contabile, ma più squisitamente politica dell'idea stessa di Europa e della sua capacità di offrire soluzioni e risposte soddisfacenti. E poi importante anche quest'altro passaggio, sempre di Conte. Noi non possiamo accettare un tasso di crescita economica allo 0,3%. Potrà essere anche di più, mi auguro che sia di più, ma comunque stiamo parlando di percentuali che sono molto modeste e soprattutto ancora una volta confermerebbero per il nostro Paese un ruolo di fanalino di coda nel sistema integrato europeo. Questo è inaccettabile, però dobbiamo entrare nell'ottica e dobbiamo ragionare di una vera e propria emergenza nazionale. Ecco, io chiamerò a raccolta tutte le forze sane del Paese per contribuire a questo. Dichiarazioni che tra l'altro hanno avuto appunto il consenso anche di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Potrebbe sembrare strano in questo momento, in questi frangenti, visto che c'è un duello in corso da tempo tra i due, però dice lui in questo modo ci rappresenta in Europa, quindi su questo tema ha smussato un po' i toni. Diciamo, tradotte queste dichiarazioni di Conte, Sergio, significa che il Presidente del Consiglio intende chiedere per l'Italia, dato l'impatto economico provocato dal coronavirus, considerate gli investimenti del programma Green, cioè della sostenibilità ambientale che l'Italia intende mettere in pratica, vuole chiedere per il nostro Paese un po' più di flessibilità sui conti pubblici. Questo è, no, Sergio, in pratica? Ma diciamo, innanzitutto, la richiesta di flessibilità riguarda soprattutto la riforma del patto di stabilità, su cui si è aperta una discussione che chiaramente avrà dei tempi un po' più lunghi, e sicuramente quello che domani andrà in scena sarà uno scontro da un lato drammatico, perché sarà veramente una battaglia all'ultimo sangue, si prevedono maratone notturne, bilaterali, trilaterali infiniti, fino forse addirittura a domenica, pensate, 4 giorni di vertice potrebbero scaturire dalla summit di domani, e dall'altro lato è anche una battaglia, scusate il termine, un po' ridicola, perché stiamo parlando di un bilancio pari all'1% del PIL europeo. Sì, sono tra i 1.000 e i 1.100 miliardi, a seconda ovviamente delle varie proposte messe in campo, ma si parla di una spesa per il contribuente medio, il cittadino europeo, di meno di un euro al giorno. Quindi per darvi l'idea dei numeri su cui andiamo questo a giocare. Per il bilancio europeo, dici? Questo per il bilancio europeo, che è la battaglia che andrà in onda da domani a Bruxelles. Quindi si incrociano vari fronti in questo senso. Si incrocia il fronte rigorista del Nord, che vuole un bilancio europeo all'1%, si incrocia la richiesta del Parlamento europeo di alzarla, la Commissione ha una via di mezzo, si ballano neanche tanti miliardi di euro, però si incrocia quindi la frugalità contro, diciamo, una tendenza a aumentare il bilancio. Si incrocia anche i capitoli di spesa, perché tre quarti del bilancio europeo attualmente vengono presi da agricoltura e fondi per la coesione, ma ci sono nuove sfide, c'è la sicurezza, c'è il digitale, c'è l'innovazione, e occorre spostare e riorganizzare queste voci di bilancio. L'agricoltura ha beneficiato fin troppo del bilancio europeo. Si parla anche di risorse proprie, cioè di come l'Europa può avere risorse senza dover farsi sempre dare i soldi dagli stati nazionali. Quindi una battaglia, come dicevo, da un lato drammatica, perché sarà veramente all'ultimo respiro, e dall'altro ridicola, perché si potrebbe anche evitare di mettere in scena ogni 7 anni, si parla di un bilancio settennale, questa ridicola contesa per pochi miliardi di differenza. Insomma, l'Europa alla fine è un bene comune, andare sempre a cercare di fare la battaglia sui singoli miliardi diventa veramente ridicolo. Vabbè, vedremo domani allora come inizia, come proseguirà questa battaglia. Invece, passando sull'altra battaglia, diciamo così, tra virgolette, quella che ingaggerà la Gran Bretagna, praticamente ha annunciato oggi il governo britannico questo giro di vite dal 2021, cioè dopo la fine del periodo di transizione post-Brexit, giro di vite rispetto agli ingressi di nuovi immigrati considerati, diciamo, a bassa qualificazione e che non abbiano una buona dimestichezza con la lingua inglese, inclusi i cittadini dell'Unione Europea. Boris Johnson, il primo ministro, praticamente punta a un modello sul tipo australiano, che prevede un meccanismo a punti, che appunto sul modello australiano, conoscenza della lingua inglese, qualifica professionale adeguata e un'offerta di lavoro già in tasca, cioè uno praticamente per avere il visto, oltre a tutti questi ingredienti, deve avere già un contratto di lavoro, in possesso di un contratto di lavoro. Quindi Sergio, diciamo che tanti ragazzi, tante ragazze, no, anche italiani, che da tanti anni vanno in Gran Bretagna anche facendo piccoli lavori come camerieri, lavapiatti eccetera, per imparare l'inglese, avranno un bel danno da questo punto di vista. Questa è una questione decisamente più seria e ci impatta veramente nell'immediato, perché parliamo di gennaio, quindi dietro l'angolo e molto da vicino, perché effettivamente possiamo scordarci, vediamo già gli effetti di cosa significherà Brexit, possiamo scordarci il giovane che va a cercare fortuna o qualche opportunità in Inghilterra, in Gran Bretagna, nel Regno Unito, quindi nel suo complesso, senza, diciamo, avere qualcosa di concreto in mano, e poi magari va a fare il barista o comunque comincia dal basso e poi piano piano monta la scala sociale. No, questo non accadrà più. Ovviamente tutto si inserisce nel contesto delle trattative sulla nuova partnership tra Europa e Gran Bretagna, ma è molto probabile che su questo gli inglesi non cambieranno idea, vogliono un sistema a punti, faranno quasi sicuramente un sistema a punto. Quindi, se lo diciamo già, se volete tentare a cercare un'opportunità in Inghilterra, fatelo fino a dicembre, perché le regole non cambiano fino a dicembre. Da gennaio non si potrà più, sarà più o meno come andare in Australia, si dovrà prima avere innanzitutto un contratto di lavoro in mano, ci saranno delle categorie agevolate, gli ingegneri civili, gli psicologi, gli infermieri accademici, avranno qualche agevolazione in più, ma in termini di requisiti di salario, perché il salario minimo di questo contratto che si deve avere in mano sono 25.600 sterline annue, gli agevolati avranno 20.000 come limite minimo, ecco, quindi non sarà poi neanche una grande agevolazione. Quindi tutti i lavori non qualificati, ecco, Johnson dice: io voglio che li facciano gli 8 milioni di inattivi britannici, quelli che già risiedono, anche gli europei che già risiedono in Gran Bretagna, perché se hanno avuto il permesso di residenza definitivo possono farlo. Certo, però, su questo però bisogna vedere, cambierà tutto, quindi un danno sicuramente per i cittadini europei, noi pensiamo anche ai nostri italiani e italiane, però diciamo che potrebbe avere un impatto negativo anche sul Regno Unito stesso, perché se adesso in certi settori ci sono nei bar, nei ristoranti, cittadini europei ed extraeuropei, anche così nell'agricoltura, nell'edilizia, quindi vedranno loro. La Confindustria britannica ha già fatto fatto un'alzata di scudi, perché sono terrorizzati dall'idea di non riuscire a trovare più persone da impiegare in determinati settori. Sono letteralmente terrorizzati, ma Johnson sembra intenzionato a tirare dritto. Staremo a vedere. Beh, staremo a vedere se torneranno a bussare le porte a noi e agli altri. Grazie Sergio Nava da Bruxelles intanto. Ciao. È nato un ibrido che rispetta l'ambiente e anche i tuoi risparmi. Nuove 500 e Panda Hybrid. Sedili infilato riciclato dai mari. Fino al 30% in meno di emissioni. Esenzione del bollo fino a 6 anni. E più libertà di circolare. A un prezzo che piace a tutti. Da 10.900 euro oltre oneri finanziari anziché 12.400 euro. Con finanziamento B-Hybrid. Nuove 500 e Panda Hybrid. L'ibrido secondo Fiat. Fino al 29 febbraio. TAN 6,45. TAEG 9,33. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su fiat.it. Anche sabato e domenica. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno potrete dire io questa non la sapevo a proposito di notizie importanti, perché a proposito di notizie importanti da sapere, di cui essere consapevoli, parole di Roberto Giordano, è quella relativa agli abbonamenti pirata alla pay TV illegali, perché per la prima volta in Italia, nella guerra appunto alle pay TV illegali, a pagare sono direttamente anche i clienti, non più non solo le organizzazioni che gestiscono le piattaforme pirata. Questo è risultato da una operazione della Guardia di Finanza, che ne ha denunciati 223 di clienti per ricettazione e per violazione dell'articolo sul della legge sul diritto d'autore. Rischiano quelli che usufruiscono di queste piattaforme pirata fino a 8 anni di carcere, una multa di 25.000 euro e la confisca dello strumento utilizzato per vedere i contenuti in streaming, che sia un PC, che sia una Smart TV, un smartphone, eccetera eccetera. Ne parlo con un grande esperto, qual è Gianfranco Giardina, direttore del sito tecnologico dday.it. Gianfranco, buonasera. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, è importante saperlo, perché qualcuno magari ritiene, ma sì, faccio questo abbonamento così sottobosco, costa molto meno, tanto che succede, mi vedo così da Zon, Sky, le partite, Netflix, Spotify per la musica, invece qui si fa seriamente, Gianfranco? Beh sì, come dicevi giustamente, è la prima volta che accade in Italia e questo cambia un po' le carte in tavola. Sgombriamo innanzitutto il campo da un equivoco: non si può far finta di non sapere che il cosiddetto pezzotto o comunque queste abbonamenti via internet non sono legali. Chi li sottoscrive sa che sta facendo un illecito, comunque sta partecipando a una macchina che, come è già stato scoperto e valutato in passato, è in mano alla malavita organizzata. Non sono piccole attività di piccoli cantinari, è un'industria. Business, quindi. Sì, è un business che si basa su una distribuzione che è multilevel, quindi né più né meno con i capi zona, i capi area, i piccoli distributori e magari il piccolo distributore locale che nella sua zona, nel suo palazzo, vende abbonamenti. In questo modo, quando si piglia uno di questi terminali, né più né meno come nello spaccio della droga, si piglia generalmente un pesce piccolo e poi risalire la corrente all'insù è molto complesso. Però fino a oggi gli utenti erano stati tenuti fuori da tutte le indagini. E questo in realtà è un po' il seguito di un'operazione che è stata fatta a settembre del 2019, in cui invece di andare a colpire i terminali, i pesci piccoli, la Guardia di Finanza aveva bloccato uno dei principali software di gestione di queste IPTV, quindi di queste TV pirata, e dentro questo software di gestione c'erano tanti dati degli utenti. Che potevano essere email o cose simili, ma anche i dati a volte di bancari pagamento. Anche giusto, quindi qui, può essere una cosa che si ritorce contro da questo punto di vista. Casca l'asino, è chiaro che l'utente diventa più identificabile. E tra l'altro può subire dei danni a sua volta, no? Da questi contraffattori, da questi truffatori. E poi da questa inchiesta di cui stiamo parlando, bisogna essere consapevoli, per l'appunto, come stavi spiegando, che ci vanno di mezzo e che possono addirittura rischiano 8 anni di carcere, dicevo, e una multa da 25.000 euro, la confisca del mezzo, no? Con cui vedono in streaming, sì, in modo illegale. Queste sono le pene massime per i reati previsti. Ovviamente il singolo utente che fa il singolo abbonamento non commercia ovviamente ne trae vantaggio, perché spende molto meno di quanto dovrebbe spendere, quindi sa di comprare qualcosa di illegittimo e quindi ovviamente fa ricettazione, ovviamente viola la legge sul diritto d'autore, ma sicuramente quelle pene indicate sono pene massime. Ho letto un po' di commenti sulla rete quest'oggi che appunto dicevano ma come, c'è gente che commette degli illeciti incredibili e fa 6 mesi di galera, qui si parla di 8 anni di galera, 25.000 euro, ecco, quelle sono le pene le massime. Però, io non credo che mai si arriverà a queste pene, anzi sicuramente non si arriverà mai a queste pene per questo tipo di reato, ma ci fosse anche una pena la cui sicuramente la detenzione verrebbe sospesa con la condizionale e comunque una pena pecuniaria fosse anche di 500 euro, non credo che sporcarsi la fedina penale per una cosa di questo tipo, al di là di tutte le considerazioni di ordine morale, ne valga la pena. Insomma. Mi raccomando, utenti avvisati, mezzi salvati, grazie Gianfranco Giardina del sito di day.it. Grazie Gianfranco. Grazie mille. Ciao. Adesso invece il nostro Dario Ricci ci parlerà di questa partita di Champions League maschile dell'Atalanta con il Valencia, che il presidente dell'Atalanta Percassi ha definito la partita più importante della storia dell'Atalanta, addirittura. Dario, in effetti vedo che il risultato la dice giusta. Direi che l'Atalanta sta mantenendo le attese per questa che è la partita che sancisce un po' l'ingresso tra le grandi d'Europa. Comunque vada, e sta andando molto bene, perché fine primo tempo Atalanta 2 Valencia 0 a San Siro di fronte a 50.000 tifosi bergamaschi. Direi che credo che oggi Bergamo sia chiusa, stasera chiusa per Champions. Ma andiamo alla cronaca, perché Atalanta è in vantaggio già al 16° con Adebur, c'è stato il cross dalla sinistra di Gomez e Adebur che è intervenuto sul secondo palo e ha battuto il portiere valenziano. Valencia che però poi, malgrado le tante assenze, ha reagito, al 29° ha colpito un clamoroso incrocio dei pali con una conclusione di Torres, poi altra occasione per i valenziani al 34° con un tiro cross di Guedes, e al 42° è invece arrivato il raddoppio atalantino con una splendida conclusione di destro, cosa insolita per lui che è mancino, dal limite dell'area di Josip Ilicic che ha siglato il raddoppio. Quindi alla fine del primo tempo Atalanta 2 Valencia 0, 0-0 tra Tottenham e Lipsia nell'altra gara della serata. Roberto, grazie caro Dario Ricci, buone partite, buon pallone, e ringrazio anche questa ascoltatrice tra i molti che dice: da poco ho scoperto Effetto Notte, così come dici tu sono diventata, dice, dipendente, e questo è l'effetto collaterale di Effetto Notte, si crea dipendenza. A tra poco.